Me ne gatto voi la rovina di noi, e noi della Lastes ti chiederemo se puoi, nei tuoi sogni c'è tanta disonestà, che all'estero vuoi portare capitali in quantità. Fratelli, Menegatto, che magnifica accoppiata, sembra quasi preparata da una maga sanguinaria, colleziona sfruttamenti, colleziona licenziamenti e dei suoi dipendenti, poi dice fatti in là. Menegatto, sei la corruzione, Radaelli sei il disertore, se poi ci metti pure tien, di certo vai in fallimento. Me ne gatto, cosa credevi comprare alla Lastes, conigli credevi trovar, ma credi a noi, conigli di certo non siamo, ma siamo agili lepri che di manti scappiamo. Fratelli, Menegatto, che magnifica accoppiata, sembra quasi preparata da una maga sanguinaria, colleziona sfruttamenti, colleziona licenziamenti e dei suoi dipendenti, poi dice fatti in là. Menegatto, sei la corruzione, Radaelli sei il disertore, se poi ci metti pure tien, di certo va in fallimento. Menegatto, noi ti vogliamo impiccar, alla forca ti lascia l'impenzolar, con le tue ossa la zuppa noi faremo, e in omaggio noi daremo, ai fascisti daremo. Una notte, io non c'ero, però ha raccontato che c'è stato qualcuno con due macchine, hanno strappato cartelli, quei cartelli che sono all'ingresso della strada, li hanno strappati, poi sono venuti qui davanti a Guardiola, hanno strappato anche quei due cartelli che c'è all'inizio dell'entrata, li hanno strappati, sono saliti in macchina, sono andati, sono ritornati, sono scesi, hanno buttato lì i cartelli in mezzo alla strada e poi sono andati. Cioè, nel momento in cui questi sono arrivati, voi che siete qui in Guardiola, cosa avete fatto? Ma è stato un po', diciamo, se vogliamo chiamarla sfortuna per noi, perché in quel momento c'era solo uno, gli altri erano giù che mangiavano. Però da quel giorno non è più successo niente, perché se doveva succedere qualcosa, c'era sempre in Guardiola tre o quattro, come minimo, e gli altri erano tutti sul piede di guerra, cioè erano giù, però erano a nostra disposizione, nessuno più dormiva, perché in qualsiasi momento doveva tenersi pronti e venire su, per difendere, per evitare che loro fuori facessero qualcosa che non dovevano fare, perché poi la responsabilità sarebbe stata nostra. Se avessero rotto anche i vetri, la responsabilità sarebbe stata nostra. Ecco, quindi nel momento in cui qualcuno da qui vede che qualcosa di anormale avviene all'esterno, basta una telefonata e tutti vengono su. E tutti vengono su. Non solo vengono su qui, e poi si fa il giro della fabbrica, si controllano perché ci sono altre entrate. C'è una entrata qua in fondo, è chiusa, non si può entrare, però si può scavalcare il cancello, saltare il cancello, e si fa il giro della fabbrica. Lo fanno tutte le notti, lo fanno questo, perché possono entrare anche dalle altre parti, saltare la rete che c'è di recensione. Sì. All'esterno della fabbrica, il discorso della lotta della fabbrica, cioè come è stato accettato? Ma dalla buona parte della gente coscienti l'hanno accolta bene, la nostra avvertenza, tanti invece, l'hanno e l'hanno anche sostenuta, tanti invece hanno sputato nel piatto, perché c'erano la gente qua, perlomeno per 15 o 20 persone, i galoppini della direzione, andavano in giro, insomma, ci calunniavano, ci dicevano delle cose ingiuste praticamente verso di noi, e ci perdeva di simpatia praticamente. Tutti all'esterno, a partire dalle fabbriche, operai, enti, istituzioni religiose, studenti, vorrei dire forse anche qualche professionista, si è sensibilizzato tanto al nostro problema che in campo sindacale mai nessuna azienda ha avuto una sottoscrizione rilevante economicamente, anche perché il totale delle sottoscrizioni avute da privati, scuole, istituzioni religiose, tutte le fabbriche della provincia ed anche da parte di enti locali, assomma grosso modo a circa 57 milioni. Una cifra appunto che nel mondo del lavoro mai nessuna azienda ha avuto in segno di solidarietà. Le erogazioni fatte da enti locali, tutti assieme i comuni che hanno partecipato, hanno dato un gettito di circa 11 milioni. I rimanenti 46 milioni sono stati dati tutti da offerte provenienti da operai, studenti, istituzioni religiose e anche da qualche professionista. Noi abbiamo scritto sul nostro giornalino una canzone, cioè una poesia, no? Scritta da un Mimmo. E allora molti genitori di noi ragazzi si sono lamentati appunto perché secondo loro quella canzone era comunista, no? Allora, e non volevano che in classe entrasse la politica. Allora sono uscite molte lamentele e alla fine abbiamo dovuto togliere la pagina. Che una signora, no, che come si capisce molto bene che non era, che perché faceva, perché era comunismo, perché appunto quella signora lì ha detto ci fanno insegnare il comunismo nelle scuole, così, no? Quindi si capiva bene che ci, diciamo, non ci dava fastidio perché facevamo, perché era comunismo. La moglie mi sopporta e basta. Che cosa pesa l'occupazione? Non è proprio troppo pesante, voglio dire, perché il fatto che ho l'aiuto dei figli finanziariamente, però moralmente, insomma, anch'io sono capitato nei dubbi certe volte, perché dopo 7 mesi per me... Ormai mia moglie ha quasi un esaurimento nervoso. Cerco di stare il meno possibile in casa, perché con più ci sto, con più discussione, la discussione continua. È sempre su questo argomento. Io cerco di stare un po' fuori casa il più possibile, così evito almeno, evito queste discussioni. All'inizio ho detto cercati un altro posto, cosa aspetti? 3 figli da mantenere, la famiglia in 5, lavoro solo io. Dopo un po' di speranze, tutte le sere come si arriva, viene là, allora cosa c'è di nuovo? Qualche volta non c'è niente di nuovo, potessi inventare una balina, anche se sia forza ossa. Sembra che vada a posto per tenerla tranquilla, se no comincia a dire va a guadagnare ergotto, va a ergotto, oddio. E ora io penso che se abbiamo sofferto noi, se abbiamo sofferto noi, ha sofferto di più le nostre mogli, perché noi qua una parola all'altra così ci svaghiamo un po', oltre che essere qua. Ma lei che sta a casa a aspettare il ritorno alla sera per avere la notizia quando rialanga e dice ne gogna anche, è peggio per loro. La battaglia politica di famiglia. Più dura in famiglia che qui. Qui bene o male. Chi ha pagato più duro in questa occupazione è la famiglia, non è mica. Al di là di qualsiasi scelta politica o sociale, la famiglia ne ha sofferto naturalmente. Ha sofferto la mancanza di stipendio, ha dovuto imporsi delle limitazioni che prima non. Non ne parliamo dei parenti, per carità, perché è proprio vero, se uno vuole avere andare a cercare bisogno dei parenti, poi se lo si ha, lo si ha proprio, ma all'opposto però. Io vedo la fine di questa avvertenza solo a parte tutto qua, ma anche moralmente, poi mi voglio vendicare proprio con questa gente, il quale mi volevo mettere nel fosso fin dal primo giorno, ci consideravano dei sobrugi, insomma, a me è stato detto il padrone è sempre padrone, tu sei sempre operaio, e con questo non è detto che io devo dare la moglie al padrone, insomma, praticamente. Andiamo, compagni, la nostra risposta sono poche parole che andiamo da lunga in testa, sono nostri consigli, uniamoci in massa, la sola risposta è lotta di classe. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro non sarà mai usato come arma da ricatto. Dobbiamo rifiutare di dover sopportare il peso della crisi solo sulle nostre spalle. Così risponderemo il giorno della lotta, il compito di tutti è la nostra vendetta. Allora chiameremo i morti dalla fossa e con loro canteremo Bandiera Rossa. Andiamo, compagni, la nostra risposta sono poche parole che abbiamo da lunga in testa, sono nostri consigli, uniamoci in massa, la sola risposta è lotta di classe, la sola risposta è lotta di classe. Oltre a quello che hanno pagato le maestranze totalmente, che avranno pagato all'incirca 500 milioni, perché grosso modo, a secondo del tipo di inquadramento di ogni singolo dipendente, il totale della montare può arrivare benissimo ai 480 milioni 500 milioni. Ma in sé non è questo che conta, non sono i 500 milioni che può aver pagato la maestranza in questo periodo di lotta. L'importante in questo periodo di lotta, oltre ai sacrifici sostenuti, è stata una battaglia per battere il capitale. Il nostro obiettivo era mantenere il posto di lavoro per la piena occupazione di tutti i 300 dipendenti e nello stesso tempo battere il padronato per il sistema che voleva portare avanti una situazione non di ristrutturazione all'interno della fabbrica, ma a breve giro di tempo lo smantellamento totale. Fabbrica, che è sta città, presente. Tornare alla Lastes dalla contentezza, forse, boh, chi lo sa come li ho fatti. Con 5 padri di famiglia in macchina, dunque puoi calcolare. Nonostante tutta l'incredulità dell'ultima giornata, perché ancora non eravamo nemmeno noi che avevamo assistito, quei pochi che avevano assistito su al comune durante la nottata e alla prefettura al mattino, anche noi non eravamo ancora convinti completamente di poter dire ai nostri compagni che la cosa era conclusa, che c'era la firma, perché quella firma l'avevamo vista troppe volte già fatta e i patti famosi non mantenuti, il documento durante la notte è stato fatto, al mattino alle 10 ci si doveva incontrare in provincia. Siamo andati in provincia, hanno concluso, hanno fatto quella specie di concordato, compromissione, come si chiama, quella che si vuole, e poi siamo usciti di lì, abbiamo detto è conclusa, è finita. Alla faccia dei crumini, alla, sì, alla faccia del padrone, i lavoratori sono ritornati a lavorare. Questo è, sì. Serenata, io canto per te. Pilar! uscito. Le più belle mescole che sono uscite sono state quelle di questi giorni. Mescole di gomma che sono uscite dalle mescole che sono rimaste nelle vasche dopo 7 mesi e mezzo, quando noi difendevamo addirittura il metano, quando venivano quelli della SNAM Progetti. Per togliersi il metano, se avessero tolto il metano, quelli lì avrebbero danneggiato completamente i serbatoi e tutte le tubature, che significava mandarci a quel paese non so quanto materia prima. Noi invece, con questa lotta, il metano è rimasto sempre, la materia prima è rimasta nei serbatoi a temperatura costante, 35 gradi. La prima materia prima che è uscita, cioè il filo di gomma, è stato il migliore che abbiamo mai ottenuto. Perché ci ha messo l'anima, il cuore e la coradella. Cioè non c'è dentro in quel filo soltanto la qualità, c'è dentro anche l'anima nostra, insomma. Questo filo è il primo prodotto che è uscito. La pilastra con la risposta, chi viene gatto voglia le ossa, si avvalenti che lo impedisce, noi gli faremo il culo triste. La pilastra con al lavoro e la vittoria cantiamo in coro. In barba al padrone e ai cromiri, noi riprendiamo a lavorare. Questa è la realtà. Perché guarda che le copie di questi dischi, io non so quante se ne faranno, 500, 1000, 2000, io dico che al di fuori di quelle 15 o 20 copie che andranno a essere acquistate da qualche industriale così per sfizio, le altre 2000 copie le acquisteranno tutti i compagni lavoratori e noi dobbiamo dare la possibilità che questi lavoratori capiscano il significato della nostra situazione sia per i maturi sia per i non maturi. Perché politica...